rassegna stampa Europa. E rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Questa volta appunto parliamo di giornali europei e di questioni strettamente europee. Settimana scorsa, lo ricorderete, abbiamo parlato a lungo della famigerata copertina dell'Economist, in cui sulla barca che affondava c'erano davanti Merkel e Hollande, subito dietro Renzi con il famigerato gelato e poi subito dietro ancora Renzi, Draghi che svuotava la barca per salvare l'euro, e quel sinking feeling, quella sensazione di affondare. Allora vi segnalo che la copertina dell'Economist di questa settimana è completamente diversa, è dedicata a Putin, c'è una scacchiera e Putin è alto come il re della scacchiera, e però questo re della scacchiera, questo scacco che rappresenta il re, è crepato. Quindi il titolo dell'Economist è The Long Game, il lungo gioco, e naturalmente all'interno si cerca di entrare un po' nella mente di Putin, quanto di più difficile possa esserci. A proposito dell'articolo dell'Economist, però, perché avevamo detto che al di là dei titoli, delle polemiche, poi in realtà entrando nel merito, Renzi era forse quello con cui l'Economist era più ben disposto, perché comunque doveva ammettere che Renzi ha, rispetto a la Merkel e soprattutto rispetto a Hollande, molto più seguito, ancora gode di molta popolarità. Comunque, chi lo volesse leggere interamente l'articolo in italiano, l'Internazionale di questa settimana pubblica la traduzione, che appunto è intitolata La barca dell'Unione rischia di affondare. Cioè, la copertina viene riportata e c'è la traduzione integrale dell'articolo, con tra l'altro l'ultima parte, che era quella che vi avevo letto anch'io, dove si parla di Renzi, che vabbè adesso non trovo, comunque se volete comprare Internazionale, che la cui copertina in realtà è dedicata a un altro tema che abbiamo toccato nella rassegna italiana, che è quello della Scozia, cioè la foto di un uomo che in un certo senso simboleggia uno degli archetipi della Scozia, cioè i capelli rossi. Molti scozzesi hanno i capelli rossi, quest'uomo ha i capelli dritti in testa. Il titolo: se la Scozia si ribella, gli scozzesi vanno alle urne per decidere se lasciare il Regno Unito. E tra l'altro abbiamo visto settimana scorsa come la questione abbia anche un risvolto europeo, perché se per caso la Scozia, in Scozia, dovesse vincere il sì all'indipendenza, che cosa ne sarà della Scozia all'interno dell'Unione Europea? I trattati non prevedono questa possibilità, cioè che è un pezzo che una macro regione di un paese che appartiene, tra l'altro uno dei paesi fondatori come il Regno Unito, si stacchi. Quindi c'è anche questo aspetto. Tornando all'Economist, c'è comunque un altro articolo sull'Unione Europea, con una vignetta questa volta dove c'è la nostra Federica Mogherini. In realtà la vignetta vede due ippopotami che sulla pancia hanno la bandiera con le stelle, quindi la bandiera dell'Unione Europea. Il titolo è appunto Dance of the Powers, quindi la danza dei poteri. I due ippopotami sarebbero in realtà i burocrati. L'articolo è dedicato alla composizione della Commissione Europea, che si sta faticosamente delineando, e si spiega come comunque ci sia ancora troppo queste dietrologie, questo gioco sulle poltrone, questo dividersi le poltrone a seconda di logiche che forse non sono, sono appunto più burocrati, più degli equilibrismi tra poteri, che non invece quello che dovrebbero essere, cioè riflettere le esigenze di un'Unione Europea che ha bisogno di cambiare. Ce lo siamo detti tutti dopo le elezioni del 25 maggio, il segnale più forte degli elettori e l'euroscetticismo che avanza era: l'Unione Europea deve cambiare. Secondo l'Economist, appunto, questa danza per scegliere la Commissione non è un buon segnale. Dal Financial Times vi segnalo la copertina di ieri, perché ieri c'era Draghi sia su Financial Times che su Wall Street Journal, e il titolo naturalmente era dedicato alle decisioni prese per questo ulteriore ribasso dei tassi, e con un commento che poi vedremo adesso, anche più tardi, vedremo anche su altri giornali, perché se Financial Times comunque ha accolto con una certa positività questa decisione, ci sono i giornali tedeschi, guarda caso, che in realtà le decisioni di Draghi non le hanno prese molto bene. Ma parliamo anche di François Hollande. Abbiamo detto, come l'Economist sottolineasse, che François Hollande, dei tre leader europei presi in esame, cioè Merkel, lui, Hollande e Renzi, è quello messo peggio. Questa settimana è stato tutto un fiorire di sondaggi in Francia, ancora prima dell'uscita del libro dell'ex compagna, che lo accusa di una serie di dichiarazioni spiacevolissime, come quella, forse la la più spiacevole, la più sgradevole di tutte, che lui ha naturalmente detto di non aver mai fatto, che di chiamare i poveri con disprezzo i senza denti. Ecco, allora vediamo che l'Execo e Libération hanno parlato proprio di questo record di impopolarità di François Hollande. Hollande battuto ogni record, anche quello di quello stabilito da Sarkozy nel momento appunto di minima popolarità. Ma a proposito di euroscetticismo e di crescita dei leader europei che sono, rappresentano appunto quella frangia di euroscetticismo, Le Monde invece ha pubblicato un'intervista a Marine Le Pen, che sapete alle ultime elezioni non politiche ma amministrative in Francia ha avuto un risultato incredibile col suo Front National, e che alle prossime politiche potrebbe fare altrettanto bene. Allora, il titolo scelto da Le Monde è: Marine Le Pen pronta a diventare primo ministro di François Hollande. Sapete che 2 settimane fa François Hollande ha fatto un rimpasto di governo. Per ora il primo ministro è ancora uno del centro-sinistra, anche se sappiamo un banchiere ex Rothschild, quindi molto più spostato verso il centro rispetto al suo predecessore. Poi ha cambiato anche altri ministri. Addirittura, appunto, secondo Marine Le Pen, lei si autocandica a diventare primo ministro di François Hollande. Ma veniamo a quello, vi dicevo, i commenti di Financial Times e Wall Street Journal, che sono importanti perché abbiamo visto come le decisioni di Draghi annunciate giovedì, commentate già ieri, ma ancora poi hanno avuto delle conseguenze ieri sui mercati, come spiega per esempio oggi il Sole 24 Ore. E allora Financial Times appunto ha scritto che Draghi ha lanciato la sua controffensiva contro il rischio di deflazione, e nell'editoriale Financial Times ha scritto che queste misure straordinarie messe in campo dalla BCE giovedì sono benvenute, ma è che il piano di Draghi non è privo di difficoltà. Secondo Financial Times, per esempio, gli acquisti di ABS devono essere abbastanza ampi per fare la differenza e permettere così alle banche di liberare capitale di rischio e prestare di più. Altro tema caldissimo, soprattutto per paesi manifatturieri come l'Italia, dove le aziende hanno bisogno di avere un accesso più facile al credito. Secondo il Wall Street Journal, per esempio, il grande problema economico dell'Europa è una classe politica che non vuole affrontare gli ostacoli strutturali che impediscono la crescita, che non hanno niente a che vedere con la politica monetaria. A pesare, sottolinea il quotidiano americano, sono l'alta pressione fiscale, norme restrittive sulle imprese e un rigido mercato del lavoro. E quindi il Wall Street Journal conclude che a Draghi vengono chiesti miracoli che non può fare, perché naturalmente, come sappiamo, è un banchiere centrale, può fare moral suasion, può ogni tanto dire dovreste cedere un po' di sovranità, scatenando le reazioni che sappiamo, come è successo qualche settimana fa, però in realtà i suoi strumenti sono quelli di un banchiere centrale, non può certo appunto modificare, per esempio, intervenire su queste cose, cioè il rigido mercato del lavoro, la pressione fiscale. Dicevamo le reazioni dei giornali tedeschi. Ecco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, per esempio, ha scritto: tutti i rischi sulla BCE, l'ultimo colpo di Super Mario, era il titolo invece della Welt. In sostanza la stampa tedesca ha un po' attaccato queste misure di Mario Draghi, bocciando i rischi che la BCE si è assunta e sottolineando la sorpresa generale di fronte al pacchetto annunciato a Francoforte giovedì. La sentenza, un po' che riassume la posizione di molti quotidiani tedeschi, è che Draghi sta un po' giocando col fuoco. Sappiamo che naturalmente con tassi così bassi più giù non si può andare, ma del resto si spera, visto che ne parliamo da mesi se non anni, che non servano altre cartucce, perché arriverà la ripresa e poi allora i tassi potranno risalire e poi eventualmente riscendere. Dalla rivista I, che è una rivista portoghese, invece un retroscena che però vedremo se si concretizzerà, per ora non sembra che non sia così. La Germania vuole un commissario europeo con un diritto di veto, e quindi di nuovo torniamo al fatto che la Germania vuole continuare ad avere questo ruolo di critica, no? Si permette appunto di criticare attraverso i suoi giornali più autorevoli le misure intraprese dal banchiere centrale Mario Draghi, ma non soltanto. Appunto su questo giornale portoghese si legge: la Germania è più attiva che mai nella guerra che combatte contro coloro che cercano di mettere in discussione le politiche imposte da Berlino all'Europa dal 2010. Durante la conferenza annuale delle banche centrali di Jackson Hole, ricorderete il 22 agosto, dove c'era stato anche quell'intervento di Obama dove aveva parlato anche tra l'altro della Siria, dicendo mi aveva fatto effetto, forse lo ricorderete, dicendo io effettivamente sulla Siria non ho avuto una strategia chiara. Ebbene, dicevamo, in questo vertice il presidente Dario Draghi ha suggerito che vengano cancellate le politiche di austerity e vengano messe in atto misure eccezionali, e in quell'occasione il ministro delle finanze tedesco Schäuble si è calato nel ruolo di artigliere di turno, scrive il quotidiano portoghese, dichiarando che Draghi era stato mal interpretato. Ricorderete, no, ma Draghi in realtà non intendeva proprio questo. Bene, l'ultima segnalazione che riesco a farvi è invece da un quotidiano, da un giornale di Bucarest che si chiama Revista 22. Abbiamo parlato tanto di questo vertice della NATO, è corredato da una vignetta questo articolo con Putin super muscoloso, sapete che lui fa molta palestra, fa molto judo, fa molta attività fisica, e Putin che si guarda dietro c'è una specie di guerriero romano con l'elmetto, lo scudo con scritto NATO, e il guerriero che dice: chi mi ha svegliato? Perché abbiamo visto che appunto c'è questo vertice ha segnalato un risveglio della NATO, che si è forse accorta anche di quello che succedeva nella Russia di Putin, e abbiamo visto sono state annunciate 5 nuove basi, era moltissimo tempo che la NATO non faceva annunci di questo tipo. Purtroppo è l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ci sono ancora tantissimi articoli interessanti sui giornali europei e italiani. Ringrazio Roberto Scaltritti in regia e vi auguro ancora un buon sabato. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.